Italia in controluce. Italia in controluce, reportage e approfondimenti della redazione di Radio 24 sulla cronaca italiana, sulle mille storie italiane. Buongiorno e buona mattina da Daniele Biacchessi. Torniamo a parlare di morti sul lavoro. Se le cifre, come vi abbiamo ricordato anche nello speciale di ieri, andato in onda alle 13.30 in Italia in controluce, indicano certamente una leggera diminuzione rispetto all'anno scorso del numero di morti, del numero di feriti. Le vittime restano comunque tantissime. Negli ultimi 10 anni sono morte 12.000 persone, 4 volte in più dell'11 settembre. È il paragone che fa Bruno Giordano, giudice per le indagini preliminari a Milano, uno dei magistrati con più lunga esperienza nei processi sulle morti bianche in più città d'Italia. Lo ha intervistato per Italia in controluce Raffaella Calandra. Circa il 65% degli infortuni gravi si verificano nelle piccole e medie imprese. Beh, però gli ultimi casi sono successi in grandi realtà. Però dobbiamo distinguere i casi in cui l'infortunio sul lavoro si verifica in una grande impresa da quello in cui sia attribuibile alla grande impresa. Molto spesso è attribuibile alla ditta appaltatrice che lavora all'interno per conto della grande impresa. Il ministro dell'economia Tremonti li ha definite meno pericolose delle grandi. Io dissento da quello che ha dichiarato il ministro Tremonti. In secondo luogo, noi parliamo spesso degli infortuni sul lavoro, dimenticando che sono questi solo una parte, l'altra gran parte sono le malattie professionali. Perché si riescono a fare pochi processi? Eppure c'è stata anche una stretta normativa molto forte, è stato introdotto anche il carcere per chi viola le norme sulla sicurezza al lavoro. È stata introdotta anche la responsabilità delle imprese. Certo, la famosa 231. La famosa 231. Abbiamo almeno due serissimi problemi in Italia. Il primo è che con la soppressione delle preture 10 anni fa molte competenze sono evaporate. Molte procure della Repubblica non riescono a concentrare le opportune energie su questa tematica, che è una tematica soprattutto preventiva. In secondo luogo, i problemi processuali si concentrano attorno alla diffusione delle competenze e alla distribuzione. Noi da qualche anno auspichiamo una direzione distrettuale in materia di diritto penale del lavoro, così come vi è la direzione distrettuale antimafia, e parallelamente una procura nazionale che si occupi della sicurezza del lavoro, perché vi è una distribuzione di competenze e una diversità di interpretazione e di direttive date agli operatori che creano una vera e propria schizofrenia. Ci può fare qualche esempio dei casi che maggiormente si prestano a diversità di interpretazione oppure anche di applicazione? Ci sono imprese edili, mi risulta, che agiscono con dei propri cantieri in varie parti d'Italia, e in varie parti d'Italia si devono adeguare alle diverse interpretazioni. Questo crea ovviamente un costo aggiuntivo per le imprese. Le imprese affrontano processi che sono lunghi, insomma dei costi notevoli. Più mi occupo di questa materia, più mi convinco che l'equazione che la sicurezza è un costo e quindi è un onere per le imprese non è vero. Io ho avuto modo di conoscere delle realtà dove la sicurezza rendeva l'impresa non solo più efficiente, ma più competitiva. Italia in controluce. La seconda traccia ci porta a Roma con Alessandra Schepisi. Entriamo oggi a Palazzo Barberini, oggetto di uno straordinario restauro. Gli occhi scuri, la pelle brillante, il seno nudo, ad accogliere i visitatori è una giovane donna nella sua radiosa carnalità. Venere moderna, figlia di un fornaio di Trastevere, modella prediletta, misteriosa amante. È la fornarina ritratta da Raffaello, indiscussa icona che da oggi in poi porterà nel mondo l'immagine del nuovo Palazzo Barberini. Dopo 60 anni di contese, 4 di restauri e 30 milioni di euro investiti, la reggia barocca per eccellenza, che vide impegnati i più grandi architetti del 600, torna infatti al suo antico splendore. Palazzo Barberini riapre dunque battenti per mostrare i tesori della Galleria Nazionale d'Arte Antica, il ministro della Cultura Sandro Bondi. Oggi è una grande giornata per l'arte italiana, perché dopo decenni prende vita finalmente la Galleria Nazionale di Arte Antica. Finalmente d'ora in avanti gli italiani, gli stranieri potranno davvero vedere tutti i grandi capolavori di questa grande Galleria Nazionale d'Arte Antica, che è fra le più importanti nel mondo. Credo che sia oggi una buona notizia per tutto il mondo culturale italiano. Anche Roma dunque avrà il suo piccolo Louvre, e a curare i lavori è stata la soprintendente per il patrimonio storico e artistico di Roma, Rossella Vaudré. Paradossalmente Roma era l'unica capitale d'Europa e forse del mondo a non avere una sua galleria nazionale che rappresentasse la storia del suo sviluppo storico artistico. Finalmente oggi questa lacuna gravissima è stata colmata e si attua finalmente il disegno voluto dai nostri politici post-unitari, quello appunto di dotare la nuova capitale d'Italia di una galleria nazionale degna di questo nome. Un progetto che nasce nel ben lontano 1883, ispirato alla creazione di una Galleria Nazionale d'Arte Antica nella capitale di un'Italia da poco unita. Palazzo Barberini fu comprato dallo Stato italiano nel 1949, ma si dovette attendere fino al 2007 per recuperare quasi 3.000 metri quadri di spazi occupati per 70 anni dal Circolo Ufficiale di Roma, trasferito altrove. Così, dagli antichi ambienti prima occupati dalle cucine dei militari, sono riemersi sotto strati di polvere fontane seicentesche, arazzi, antichi velluti, mentre dai depositi sono venuti fuori capolavori assoluti, da Guido Reni a Caravaggio, da Raffaella a Giovanni Bellini a Francesco Lippi. Uno scrigno di tesori da oggi aperto al pubblico. Il direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, Mario Resca. La cultura si muove, il ministero si muove. Dopo anni di calo di visitatori dei nostri musei, dei nostri siti della cultura, che sono i musei, i siti archeologici, le nostre biblioteche, gli archivi di Stato, bene, i primi 8 mesi dell'anno ancora registrano un aumento che è attorno del 13% dopo anni di calo e un aumento degli incassi del 6% per quanto riguarda la biglietteria. Questa nuova offerta culturale che questo incredibile palazzo sta offrendo ritengo che ponga un ulteriore primo obiettivo che con Rossella Vaudré ci siamo dati, quello di raddoppiare il numero di visitatori, passare da 100.000 persone a 200.000 visitatori. Altro obiettivo, annuncia il ministro della cultura Bondi, sarà una riforma dei musei a partire da Palazzo Barberini. Tutti i musei italiani sono delle diramazioni degli uffici delle soprintendenze, diversamente da tutti i paesi del mondo in cui i musei, i grandi musei statali soprattutto, hanno un'autonomia gestionale finanziaria e sono dirette da un direttore che ha la responsabilità naturalmente dello sviluppo, del numero dei visitatori, del miglioramento dell'allestimento dei musei, relazioni internazionali eccetera, quindi ha la responsabilità di sviluppare l'attività del museo stesso. In Italia questa anomalia deve essere superata. Era l'edizione di Italia in Controluce di quest'oggi, 1 ottobre. L'archivio di tutte le puntate su radio24.it, il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce, la mail controluce@radio24.it. Nuove storie e nuovi temi oggi alle 13.30, naturalmente su Radio 24.